Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, lo sapevate che gli americani e i canadesi si curano i denti con un anestetico made in Italy, anzi made in Campania? E che il tasso di crescita di quell'anestetico negli Stati Uniti è del 30% circa, cioè pari a 6 volte la media americana? Quell'anestetico si chiama Orablock, è a base di un composto chimico che prende il nome di articaina ed è prodotto da un campione della farmaceutica made in Italy, un nome storico, la PRL. Di PRL e del pharma italiano, che ci interessa moltissimo perché è un settore chiave del manifatturiero, ne parliamo oggi con l'ingegner Fabio Velotti, amministratore unico di PRL Pharma. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ecco, il pharma, su cui poi ci sarà una scheda nella seconda parte della trasmissione, è un settore chiave del manifatturiero italiano. Uno manifatturiero pensa alle auto, alle vite, ai bulloni, alle macchine. Invece l'Italia è il secondo produttore farmaceutico dell'Unione Europea dopo la Germania, con la bellezza di 29 miliardi di fatturato, 63 mila addetti e una crescita dell'export che dal 2010 al 2014 è stata del 50%. Quindi abbiamo qui PRL non solo per raccontare una storia di manifatturiero italiano particolare, la storia di PRL, ma anche per raccontare questo dato sorprendente del farma che esporta. Ecco, ingegner Velotti, come mai siete tanto presenti negli Stati Uniti e come mai gli americani apprezzano il vostro prodotto italiano fatto a Capua? Ma il frutto di lavoro, del lavoro che abbiamo fatto negli ultimi quattro anni e mezzo negli Stati Uniti, dove abbiamo proposto un nuovo anestetico dal contenuto qualitativo a nostro modo di vedere superiore a quello dei competitori, e il nostro mercato, che è fatto dai dentisti fondamentalmente, quindi dagli odontoiatri americani, ha subito apprezzato le caratteristiche, le qualità, lo ha prima provato e poi ci ha consentito di prendere un 12% di quota di mercato nel nostro settore di nicchia, che per una società dal nome pressoché sconosciuto presso gli americani e un marchio pressoché sconosciuto presso gli americani è un risultato di tutto rispetto. Ecco, ma il prodotto funziona anche perché forse il mercato americano è aperto e meritocratico, quindi lascia spazio alle cose migliori, no? Assolutamente, non sarebbe stato possibile, secondo me, in nessun'altra parte del mondo arrivare in 4 anni a distribuire il prodotto ad 8 distributori nazionali. Nazionali significa che distribuiscono a 300 milioni di persone, quindi in un continente importante, con 18 distributori sub-dealer, quindi arrivare fino nei paesi sperduti degli stati più lontani degli Stati Uniti credo che non sarebbe stato possibile in nessun altro paese. Ecco, proseguiamo questa storia, anche l'analisi e il racconto del farm italiano, nella seconda parte della puntata. Adesso pubblicità e avvisi sul traffico, restate con noi, mi raccomando. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Fabbrica 2.4. Rieccoci in studio, stavamo parlando con l'ingegnere Velotti, amministratore unico di PRL Pharma, della manifattura farmaceutica e della storia della PRL. Ma ci può raccontare com'è la vostra fabbrica di Capua? Beh, la nostra fabbrica di Capua è una tipica fabbrica farmaceutica, è approvata sia dall'ente di controllo europeo che si chiama EMA, sia dall'ente di controllo americano che si chiama FDA, e quest'ultimo ci dà la possibilità di poter commercializzare e vendere i nostri prodotti negli Stati Uniti. Ecco, ma ce ne sono altre di fabbriche approvate dall'FDA in Italia? In Italia ce ne sono tante, ma noi siamo l'unica fabbrica approvata dall'FDA che si trova al di fuori del territorio nordamericano, che può vendere negli Stati Uniti anestetici dentali. Tanto per dirne una, noi siamo l'unico stabilimento a livello mondiale, oserei dire, l'unico altro si trova in Canada, a poter esportare anestetici dentali negli Stati Uniti. Ecco, ma la vostra fabbrica ha anche dei numeri molto interessanti, no? Sì, la nostra fabbrica può produrre fino a 100 milioni di fiale, quindi di dosi individuali di anestetico, e per dare un esempio, nel mondo se ne consumano 800-900 milioni. Noi potremmo in teoria fornire il 20% di tutto il globo con la capacità produttiva dello stabilimento. Oltre questo abbiamo altri impianti di produzione per produrre fiale, flaconi, i numeri sono ragguardevoli, oltre 40 milioni e così via. Ecco, sull'industria farmaceutica, che come non forse tutti sanno è un settore chiave del manifatturiero italiano, ho preparato questa scheda che ora va in onda e che vi dà idea dei numeri del settore. L'Italia è il secondo produttore farmaceutico dell'Unione Europea. Il settore genera 29 miliardi di fatturato e dà lavoro a 63.000 addetti. Insieme alla chimica, il pharma è una colonna portante del manifatturiero italiano. Tra il 2010 e il 2014 l'export farmaceutico è cresciuto del 50%, un aumento che rappresenta un record mondiale. Nel 2014 l'occupazione del pharma italiano è aumentata dell'1%. Il settore farmaceutico italiano è costituito per il 60% da imprese a capitale estero con una forte presenza industriale nel paese e per il 40% da aziende a capitale italiano sempre più internazionalizzate. La fonte di tutti i dati di questa scheda è una ricerca del Centro Studi di Confindustria basata su dati forniti da Farmindustria. Ben il 47% della crescita della produzione farmaceutica italiana è dipesa dall'attrazione in Italia di produzioni prima effettuate in altri paesi. Ci sono infatti molte aziende straniere che reputano conveniente trasferire in Italia fabbriche e filiere produttive che prima erano in altri paesi. E questo avviene nonostante le note difficoltà burocratiche e fiscali per fare impresa in Italia. Da sottolineare anche la notevole efficienza italiana nei settori dell'indotto farmaceutico, in particolare nella meccanica e nel packaging, settori nei quali l'Italia è leader mondiale insieme alla Germania. La provincia di Milano è tra le prime tre regioni farmaceutiche europee. A Pavia la farmaceutica rappresenta il 25% dell'export totale e a Monza il 6%, con una crescita del 9%. Significativa anche la presenza a Bergamo, più 25% nel 2014. La farmaceutica è anche il primo settore industriale del Lazio, 45% del totale, che peraltro è la prima regione italiana per export. Ecco, tra i dati della scheda vorrei segnalare che la crescita della produzione farmaceutica italiana è dipesa per il 47% dall'attrazione di produzioni industriali che prima erano in altri paesi, cioè degli stranieri hanno spostato delle loro produzioni che prima erano altrove per portarle in Italia. Quindi non c'è solo l'export che è cresciuto del 50% con aziende come la PRL che vendono in tutto il mondo, ma noi attraiamo fabbriche straniere. Non solo, un altro dato della scheda: a Milano, provincia di Milano, il pharma rappresenta il 50% delle esportazioni high tech. E un'altra cosa che forse non sapete è che la farmaceutica è il primo settore industriale, sapete di che regione? Del Lazio. Queste cose sono notizie che forse farebbe la pena ricordare di più per dire che l'Italia è un paese manifatturiero per eccellenza. Ma torniamo alla PRL. Voi vendete questo anestetico dentale, però non vi limitate a questo. Vi siete dati questa strategia, ingegner Velotti, di trasformare lo studio dentistico in un presidio per la salute del cavo orale, giusto? Sì, giusto. 4 anni fa abbiamo impostato un piano di sviluppo basato su altri prodotti oltre l'anestetico dentale. Abbiamo puntato su prodotti puramente utilizzati nella prevenzione di malattie varie del cavo orale, tra i quali Gocles, che vuol dire Glass for Oral Cancer Curing Light Exposed Screening. In pratica sono degli occhiali che servono per identificare tempestivamente il cancro alla bocca? Esatto, è un occhiale che inizialmente è brevettato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Nella nostra attività di scouting, di ricerca di nuovi prodotti, lo abbiamo preso, abbiamo comprato il brevetto e da un'idea che era su un brevetto l'abbiamo industrializzato, abbiamo trovato un partner commerciale il quale adesso ha la licenza esclusiva di è già venduto in Canada. Sì, abbiamo ormai già un contratto in Canada, non noi, il nostro partner commerciale. Ma certo, però comunque i canadesi possono, il dentista canadese mette questo occhiale in bocca al paziente e così si capisce se c'è il cancro. Poi c'è Smile, un kit per la diagnosi precoce della carie, che sarebbe? Ma è un kit che è attualmente in fase di sviluppo, ci stiamo lavorando con l'azienda che lo ha ideato, noi siamo azionisti come PRL di questa società e in più contribuiamo allo sviluppo. Come funziona? È un kit che dovrà analizzare la saliva dei pazienti per verificare la presenza o l'assenza di carie senza avere necessità di effettuare raggi X senza essere sicuri della presenza o meno di carie. E poi c'è un nuovo farmaco per la parodontite. Sì, in effetti è più che un farmaco, è un dispositivo medico, cioè è un prodotto che dovrebbe stimolare la ricrescita della mucosa nelle cosiddette tasche parodontali, che ormai è la malattia del secolo, la parodontite, la recessione gengivale, sono malattie che coinvolgono un individuo su due ormai a livello globale, e piuttosto che ricorrere alla chirurgia stiamo investendo in un prodotto che potrebbe consentire la ricrescita della mucosa lì dove manca. Ecco, il vostro stabilimento di Capua ha delle potenzialità così importanti che voi state anche cercando di offrirlo come produttore in contratto per conto di altre case farmaceutiche, no? Nella vostra strategia c'è questo? Certo, la strategia è combinata. Avere sia l'impianto produzione contract manufacturing, quello che si chiama quindi produzione conto terzi, tra i quali poi l'Italia è uno dei paesi leader in questo settore del contract manufacturing farmaceutico, e ovviamente la strategia è quella di utilizzare le risorse di stabilimento, riempirle a massima capacità sia con prodotti propri dei quali si può gestire la vita del prodotto, sia con prodotti provenienti da altri che non hanno capacità produttiva e che utilizzano società come la nostra. Il tempo stringe, quindi c'è un altro punto della strategia di PRL che mi piace ricordare, che si chiama Terametrix. Lo spiego io, se l'ingegnere me lo consente, perché io sono un po' più veloce. Terametrix è nata dall'unione di una società svizzera e della ricerca di PRL, e fa ricerca, test clinici su farmaci, ma fa anche delle cose avanzatissime nel campo della cosiddetta bioinformatica. Che cosa succede? Succede che attraverso dei software di cui ho visto la dimostrazione a Zurigo, una roba pazzesca, anche un po' filosofica, ci sono delle analisi, delle simulazioni per cui un farmaco utilizzato per curare abitualmente una malattia si può scoprire che serve per curarne un'altra, abbassando le spese di sviluppo in modo molto considerevole. Ho detto bene? Perfetto. Esempi sono l'aspirina, l'aspirina utilizzata per l'influenza, adesso si sa che... Per il cuore, ecco, e voi fate ricerche su tutto questo. Il tempo è tiranno, ringraziamo l'ingegner Velotti. Grazie a voi, grazie a tutti. E a presto, alla prossima puntata.